Io credo nella salvezza del mio pianeta. Io credo nell'ecologia della mia mente. Io credo alla caotica armonia universale. Io credo ad un segnale lanciatomi da una stella. Sulla pelle le dolci carezze del mare.